Yeah. Al mio fuoco la trasporto desidio, al regista e l'acceso cor mio, questo caro trionfo non vedo, quanto dolce quest'anima sarà. Al mio foto, al trasporto, al desidio, non resiste l'acceso cor mio, questo caro trionfo non vedo, quanto dolce a quest'anima sarà. Voi partite, non noiate, obbedite, non noiate, ora seco, non passiate, non venite, non venite. Al mio fuoco, al trasporto, al desio, non resiste l'acceso cor mio, questo caro trionfo non velo quanto dote a quest'alma sarà. Quando dote a quest'alma sarà, sarà, sarà quest'alma, quest'alma sarà. Quando dote a quest'alma sarà, sarà, sarà quest'alma, quest'alma sarà. Quando dolce quest'alma sarà, quando dolce quest'alma sarà, quest'alma sarà, quest'alma. Disposto l'ascello a salvar e non attende altri che noi. Voi sospirate. Almeno ch'io possa ancora volta riveder Mustafa. Sol questo io bravo. Pria di parti dobbiamo congedarsi da lui, ma se vi scaccia perché l'amate ancor, fate a mio modo, affrettiamoci partiti allegramente, e voi siete finalmente giovine, ricca e bella, e al mio paese voi troverete quanti può una donna bramar, mariti e amanti. Un palo, addirittura, a me che brutto affare. Oh. questo, ma questo non può stare. Andate dunque al diavolo, andate dunque al diavolo, voi non sapete amar. Ah no, ma ascolta, ma che da me, ma costei mi fai passar, costei mi fai passar, costei mi fai passar.